L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern? Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Io vorrei un paese totalmente deislamizzato. Stop, fine. Le loro palandrane del cazzo vadano a sventolarle in mezzo al deserto, là, con i cammelli, le oasi, Tuareg e tutto quel cazzo che li circonda. Detto con il massimo rispetto per gli imam, per tutti questi, tutte queste palandrane del cazzo che circolano liberamente, che organizzano terrorismo, attività sovversive. Detto con il massimo rispetto per tutte queste palandrane del cazzo. Tu sei una pezza di merda, sei. Tu sei una pezza di merda, sei, guarda. Ma lascia stare la religione! Lascia stare la religione! Che cazzo c'è con la religione? Ma lascia stare la religione! Ma è una roba pazzesca! Miserabili! Allora Davide, ti dico solo questo, tu dirai no, ma non l'Islam non c'entra niente, è come al solito, è l'Islam è deviato, politico, eccetera. Intanto il tizio che ha fatto, uno dei tizi che ha fatto l'attentato a Londra e poi è morto, sì. Sì. È morto, diceva alle vittime questo, ferendole, uccidendole con un enorme coltello, sì. Un enorme coltello. Questo è per l'Islam. Sì, vabbè, questo è. Sì, ma come mai non dicono questo è per, che ne so, è per Gesù Cristo? Vabbè, l'ideologia. Questo è per Buddha. Ma che si chiama l'ideologia? Questo la è, follia. Questo è. Dicono sempre questo è per l'Islam. Questo è per l'Islam. Non dicono un'altra religione lì. C'entrerà qualcosa l'Islam? Sarà o no, guarda, una religione più violenta, guarda, di altre? Guarda, e chiudiamola veramente qui perché non ha senso continuare la trasmissione oggi. No, veramente ha senso. Comunque. No, non ha nessun senso. Sì. Ma se il 1,5 milioni di musulmani che sono qui, se fossero tutti come dici tu, allora sarebbe tutto finito. Ma cosa c'entra? Allora devi portare rispetto per questa minoranza che vive in Italia, devi portare rispetto per l'onorevole Khalid Ciauchi, che come ben sappiamo ormai in questa trasmissione. Ma che è un deputato roba? Ma chi se ne frega? Di fede islamica, chi e che non può frega? Essere ma in alcun modo accomunato ai fanatici. Ti dico solo, this is for Islam. Questo ha detto l'attentatore. Questo è un pazzo, infatti. Sì, ma non ha detto sono pazzo, ha detto quello. This is for Islam. Ma questo è l'Islam fanatico. This is for Islam. Tu vuoi negare la realtà come quelli che negano le responsabilità del Comune di Torino nella vicenda della fuga per panico, i feriti, 1500 feriti. Sì, eccetera, eccetera. Tu, la cosa incredibile è che il Comune se ne lava le mani. Ecco, cioè, il Comune di Torino, a me non mi interessa che sia amministrato dai 5 Stelle, certo, che sia amministrato da Pinco Pallino, dal PD, da Forza Italia, dalla sinistra, non me ne frega nulla. Prefetto il Comune sindaco, non può scaricare la sua responsabilità, certo, sulle che organizza, certo, l'ente. Il comune ha comunque la responsabilità, insieme ovviamente alla polizia, eccetera, eccetera. Per cui si doveva proibire l'ingresso in quelle zone delle bottiglie. Bravo. Negli stadi non ti fanno entrare con le bottiglie. Esatto. No? Ti danno i bicchieri di carta. Anche nei concerti. I concerti. Oh, Ma a me fa godere Di Battista, devo dirti la verità, quando dice che il loro reddito di cittadinanza sarà l'unica speranza per Alfano dopo le elezioni. Battutaccia, sai quanto godo, però, sai quanto godo per questa cosa. Ma che battutaccia Di Battista, 5 Stelle politica, dice così. Il reddito di cittadinanza su Alfano, se si iscrive poi a un corso per il lavoro, vabbè, questo chi se ne frega. Sì. Comunque l'unica speranza per Alfano di sopravvivere dopo le elezioni è godo. Va e il reddito bene, di cittadinanza che dicono i 5 Stelle che metteranno. Battuta di Battista, 10 all'ode. L'unica soluzione per Alfano sarà il reddito di cittadinanza. Ad Alfano gli daremo 780 euro al mese di reddito di cittadinanza. Però deve lavorare 8 ore gratuitamente nel suo comune, che è Agrigento. Si deve inserire un percorso di formazione e non può rifiutare tre proposte d'ora, perché se Alfano... Allora, a proposito di Torino, c'è un deputato dei 5 Stelle che a un certo punto durante la giornata ha detto che il numero dei feriti era taroccato per mettere in difficoltà l'Appendino. Poi si è scusato. Senatore, cioè, il livello Airola. È quello. Airola ha detto senatore il numero Airola. Dei feriti è taroccato. Come fa a essere taroccato il numero di feriti? Ci saranno i conti, la gente che va in ospedale, che si è fatta medicare. Ma soprattutto stai zitto, no? Ma cosa devi difendere? Poi si è scusato. Aspetta, che ti scusi? Il primo pensiero è sempre quello che vale. Cioè, se tu dici una cosa, è esattamente quello che pensi. Ti scusi? No, non ti scusi. Pensi che ci sia un complotto contro l'Appendino, mentre non c'è nessun complotto contro il sindaco di Torino, che semplicemente ha organizzato male quella serata. Basta dire ha organizzato male quella serata. Mi sembra talmente evidente che non c'è manco bisogno di aggiungere nulla. Cioè, si possono commettere tanti errori nell'amministrazione di una città, no? Chiunque li commette, anche i sindaci più bravi. Io non so se l'Appendino sia bravo o no, ma c'è stato un evidente errore. Senza dubbio. Perché se c'era un tappeto di bottiglie di vetro, qualche problema ci sarà stato nell'organizzazione. Se al di là del motivo per cui poi è scattato il panico, ci possono essere mille motivi e non lo so, non mi interessa quello che è stato coinvolto all'inizio, quello che lo Zenetto è stato scagionato e sembra che non c'entri niente, eccetera, eccetera. Però se c'è un tappeto di vetro, ma il 99% delle volte non succede nulla, ma la volta che succede qualcosa la colpa è evidentemente di chi ha organizzato quella serata. No, ma la colpa è ovvio che è sua, anche perché è il sindaco che doveva fare una delibera specifica vietando la possibilità di vendere per questi bagarini, o come si chiamano, gli ambulanti, le bottiglie di vetro. Sono stato qualche settimana fa, come tu sai, al concerto di Fedez e J-Ax, tu dici chi se ne frega, sono andato con mia figlia e altre amichette di mia figlia, e tu puoi dire chi se ne frega. Puoi dirlo chi se ne frega, però entrando lì loro ti vietavano di portare qualunque cosa da fuori, ma è molto semplice, se no ti chiudono il concerto, ti tolgono i permessi per poterlo fare, ma è talmente semplice. È più difficile controllare una piazza rispetto a uno stadio, ma cosa vuol dire è più, più complicato difficile? Però si può fare, naturalmente. No, ma a me lo dici, si può fare. Mughini, sentiamo Mughini contro questo Airola 5 Stelle. Non è più ammissibile che ci sia uno scarico, scarico continuo. Ma allora, nel momento che ci chiede visto quel cialtrone dei 5 non Stelle, non potete dire niente perché c'è. Scusa, il numero Matteo. Dei feriti è tutto finto. Alessandro. Allora, c'è anche il direttore della stampa Molinari che dice che la responsabilità è pure della Juve, cioè non so se lo dica così esplicitamente, perché doveva organizzare la festa dentro lo stadio, che è un'altra cosa che si può dire. Per esempio il Real Madrid ha organizzato dei maxi schermi anche dentro il Bernabeu, lo stadio dove c'erano 50-60 mila persone. Perché non si può organizzare una cosa di questo tipo? Cioè magari era più ordinata, non lo so, eh. Allora, voglio tra l'altro sottolineare delle responsabilità forse posso anche avere la società stessa, nel senso la società Juventus avrebbe dovuto organizzare allo stadio, visto che appunto le partite si vedono allo stadio, una grande festa. Esattamente questo festa volevo sottolineare, direttore. Ovviamente non era Molinari, Poi mi direte chi è? Poi un'altra volta domani. Allora, l'esultanza di un grande tifoso del Napoli, Carlo Alvino. Beh. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno e forza Napoli. Mamma mia, buongiorno, buongiorno e forza Napoli. Eccoci qua. Non ce la faccio più. Mi hanno detto che hai visto la partita, sabato. Ho visto la partita e ho tifato Real Madrid, ma io lo dico, io non mi col nascondo. Cappellino, col cappellino. Col cappellino di Real Madrid, al terzo gol mi sono fatto un giro per tutta la casa che ho capito cosa significa di fare e abbracciarsi il computer davanti al televisore. Tipo a favore, tipo contro, è anche questo il bello del calcio, altrimenti dobbiamo essere sempre politicamente corretti, dobbiamo sempre dire che no, per un ranking italiano, ma che cosa, ognuno è libero di fare quello che vuole. Siamo al top, Cruciani, siamo al top. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Dai Parenzo, di ancora che non ci vogliono leggi speciali, che non bisogna un po' limitare la libertà per salvaguardarci da quella manica di figli di puttana islamici di merda. Luciani, tu che sei il capo degli ultra, dici ai tifosi juventini che il Vesuvio si è incazzato, per ora sono 1500. Ha chiesto cretino, no? Per ora sono 1500, cosa vuol dire? Che ci volevano più feriti? Mamma, questo è un altro deficiente. Mamma mia, che gente. Un altro deficiente che gira. Il Vesuvio si è incazzato. Per adesso sono solo 1500. Che gente. Francesco da Taranto, vai. Luciani, ciao. Ti vorrei ringraziare innanzitutto. Sì, dimmi, perché? Mi hai fatto scaricare la batteria del cellulare. Vabbè, mica è colpa mia. 20 minuti di attesa, sei un grande. Ma 20 minuti di attesa, guarda, che è normale, eh. Cioè, è assolutamente normale. Dimmi, Francesco, dai. Volevo parlare un po' con te sul fatto dei migranti e sui napoletani. La prima cosa, l'ignoranza della calcistica è scandalosa, vorrei dire. Ma chi? Di chi? Di chi in particolare? No, in generale proprio dei tifosi in particolare. Ma non è, qui non ci sono generalizzazioni, cioè non è, cioè generalizzare quelli sono ignoranti, quegli altri sono gradini, quegli altri sono così. Tutti quelli contro la Juve, che hanno tifato Juve, tra virgolette. Ma è normale di fare anche contro un po', è assolutamente normale. Però guarda, quando una grande squadra italiana finisce nella finale di Champions, soltanto il Torino, i tifosi del Toro hanno diritto, come dire, a gufare. Ma è normale, altri... il tifo contro è normale, dai ragazzi, ma, il tifo contro è normale per l'Italia, ma qui è una squadra italiana, ma che c'entra? Sinceramente sono juventino e quando stava a Cacà nel Milan mi piaceva il Milan di Cacà, il Torino quest'anno mi piaceva. Vabbè, allora... Bellotti, tutto il re. Cioè non è che io mi metto a gufare contro gli altri, giusto così. Poi voglio vedere la quarta in classifica quando si qualifica in Champions. Matteo da Pescara, già mi hai rotto. Matteo da Pescara, vai Matteo. Volevo dire lì allo scamiciato. Sì, chi è lo scamiciato? Parenzo, che lo vedo dalla telecamera. Sì, allora? Sbracato, scamiciato. Sì. C'è una cosa male alla scientifica. Schiena. Ho un male alla schiena, è pazzesco. È un male alla schiena. Anzi, le faccio il dito medio. Lo vede il dito medio, lo vede? Sì, lo vedo. Grazie. Ecco. Grazie. ti dimostro perché l'Islam non è religione di base, come dice lì sua banalità. Se tu adesso bestemmiassi in diretta a Dio. Ma io non bestemmio. Tu non lo fai, certo. Se però lo facessi, nessuno ti minaccerebbe di morte. si farebbero una risata, magari qualche polemica così stupida. Beh, no, se polemiche tu, sì, però è vero quello che dici. Se tu, se tu bestemmiassi là adesso, rischieresti la morte. La morte, perché ci sarebbe qualche invasato sparso nemmeno in Italia. Hai detto bene, qualche invasato, gli invasati ci sono dappertutto, non c'è dubbio. No, detto bene, no, perché se bestemmiassi Dio non ci sarebbe alcun invasato che ti minaccerebbe di morte. Su questo siamo d'accordo, ma che riflessione ha? Che riflessione, ma le sembra di aver fatto una riflessione intelligente a lei? Intelligentissima. Lei che, intelligentissima. Le sembra di aver fatto, va bene, bene. Perché questa è la differenza tra una religione e un'altra. Non significa che tutti sono pazzi, tutti gli islamici sono pericolosi. È ovvio che ci sono quelli che non sono pericolosi, ma la religione in sé, quella religione lì, può creare, e lo crea, perché siamo sotto minaccia tutti, può creare degli invasati, dei pericolosi, degli assassini. Il discorso che fa Parente è come quando si dice che il fascismo, cioè il fascismo moderato, immaginate Parenzo che parla di fascismo moderato, non esiste il fascismo moderato. Questo è buono, non però, non è male. Non esiste. Cioè, e Matteo non esiste l'Islam moderato. Non ha torto, ma come si fa a fare delle generalizzazioni simili? No, ma non è generalizzazione, in questo caso lui dice come il fascismo, tu credi che ci sia un fascismo moderato? No, l'Islam è incompatibile con la democrazia, punto. Esatto. Questo non significa che bisogna mettere al bando tutti i musulmani, per carità, assolutamente no. Ma il problema sarà l'ISIS, ma certo sarà l'Islam violento, no? Ti ripeto la frase che diceva questo tizio prima di ammazzare le persone, cioè, col coltello. Cioè la notizia di oggi qual è? Disease tu dirai for che is, ma sì, for d'accordo, Islam. Ma è un invasato, esatto, malato di cervello, certamente, che usa il nome di Dio per uccidere. Ma la notizia di oggi, come il nostro acuto ascoltatore saprà, è il fatto, tu dirai che palle, chi se ne frega, l'Arabia Saudita, il Bahrain, gli Emirati e l'Egitto hanno chiuso le frontiere col Qatar dicendo loro stessi, gli arabi, che il Qatar fomenta il terrorismo. Ma chi sei, all'IMES qua, al Centro di Politica Internazionale? Ma chi se ne frega di però dei rapporti si... tra queste nazioni, no, ma chi se ne... cosa vuol dire? Ciao Matteo, cosa dopo può... ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. No, ma l'altra notizia di oggi è incredibile, oltre alla scarcerazione del rom accusato, sì, dal jeep accusato, sì, in realtà adesso viene accusato il fratello di avere buttato delle bombe dentro il camper dove c'era sì, la famiglia rom, uccidendo 3 persone. Adesso però stanno cercando il fratello. E questa cosa di Rina, il signor Totò Riina, sì, certo, potrebbe essere, è malato, gravemente malato, a 86 anni circa, potrebbe essere scarcerato. Signor Totò Riina, sì, in base scarcerato alla legge, allora io dico una cosa, ragazzi, non è che va, siccome in libertà, io no, come scarcerato per motivi di salute, significa morire a casa. Cioè consentirgli, diciamo, di morire a casa. Il capo dei capi ha 86 ma anni. Ma tu sei, no? D'accordo? Tu quindi sei d'accordo? Io dico che Rina, uno che è malato, ha diritto a una morte dignitosa. Questo sia, allora, esso, ragazzi, un capo Rina mafia e muoia in carcere. Io, certo, Rina deve essere libero, controllato, perché quello ha 86 anni ancora può fare delle robe. Però in linea di principio il diritto nei paesi occidentali, nei paesi evoluti, fa sì che no, un ma uomo, ragazzi, malato, gravemente malato, alla fine della sua vita possa scontare la pena in altro modo. No, quindi, no, ragazzi, Totò Riina, no, rimanga, no, in galera, rimanga in galera. Poi lo dice, è un'ipotesi della Cassazione. Non mi, sì, ma non mi interessa chi è, di chi non è la Cassazione, tutte queste cose italiane, non mi interessa. Italiane, chi è? Amico. No, ragazzi, Riina muoia in carcere. Muoia, non me ne frega niente, sta male, benissimo, venga assistito in carcere, ma fuori dal carcere non lo puoi. Scusa, tu vorresti vedere Hitler se fosse mai stato arrestato, no, fuori dal carcere? Io, siccome paragono Riina a Hitler, ha ammazzato una marea di gente. Ha ammazzato una marea di gente, muoia in galera. Avrei voluto che molti dei gerarchi nazisti facessero il carcere, ad esempio. Ragazzi, invece sono stati latitanti, ragazzi, all'estero. Riina muoia in carcere, il capo dei capi, il capo dei mafiosi, 86 però, anni. Scusami, me ma ne la, sbatto, muoia in carcere. La Cassazione ha detto un'altra cosa, cioè ha parlato, ragazzi, del diritto a morire dignitoso. Ma non mi interessa, non ti interessa. Va bene, il motivo per cui la vogliono scarcerare è questo. Non ti interessa il diritto, no, ma il motivo alla per... morte, no, giusta. No, ma per alcuni no. Per alcuni no, Riina muoia in carcere. Non mi interessa se a 86 anni sta male. Non me ne frega un nulla, resti in carcere. Non me ne frega un cazzo della Cassazione. Il capo dei capi resti in galera. Muoia assistito, per carità. I medici non è che gli devono fare l'iniezione letale. Accampato fino a 86 anni, muoia tranquillamente in galera. Dobbiamo fermare l'Islam. L'Islam in Italia non deve esistere. Ma chi è il Papa? Ma chi è? Io sono Cristo. Io sono Cristo. Querelatemi salvare l'Italia! Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. La Zanzara. Direttore pazzesco! Direttore! Ah! Ma è una roba pazzesca! Guagliù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fare l'800240024 oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Ciao Cruciani, siamo della maggioranza silenziosa, ma nonostante questo addio al celibato ad Amsterdam con workshop sul cunnilingus e sushi su Donna Nuda. Siamo veramente al top. Allora, caro David, noi non facciamo mai nulla per gli anniversari, per le date importanti, queste cose qua, non ce ne sbattiamo totalmente. Però voglio ricordare a tante persone che ci stanno ascoltando, e lo voglio ricordare anche a te, perché la persona che ricordiamo adesso ha fatto tante battaglie, tantissime battaglie con te, e so che in fondo un po' lo rispettavi, in alcuni momenti magari no, però oggi, un anno fa, moriva... Non dico un amico di questa trasmissione, ma ci siamo scontrati diverse volte, soprattutto si è scontrato con te. Oggi, un anno fa, moriva il mitico Buonanno. Il mitico Buonanno in un incidente stradale. Vai, ragazzi! E allora è lui il forcone, lo porta adesso! Forcone, onorevole Buonanno, ma la prego! Con le tasse che devono essere abbassate! I commessi intervengano, tolga quel forcone, per favore! Signor Presidente! Signor Ministro, le vede queste? Queste sono quelle tolga per mettere... Tolga questa cosa, ma la smetta! Io gliele regalo... Tolga queste manette, intervengano i questori! Se io dico siamo più scuri, allora tutti noi ci trucchiamo, ci facciamo un po' più neri e quindi poi andiamo in giro tutti truccati di nero e diciamo anche noi vogliamo gli aiuti che si danno gli extracomunitari... Non pensiamo ai nostri pensionati che magari per andare avanti mangiano sardine. Allora io ho pensato che sia giusto. Qua c'è una spigola. No, collega, rimuova quella spigola. Chiedo ai commessi di intervenire. La richiamo formalmente. La richiamo formalmente. Agli altri, collega ai Buonanno, abbassi. Ai nostri disoccupati. Abbassi. Collega Buonanno, la richiamo per la seconda. Il governo si deve. Collega tagliare. Buonanno, lei è espulso dall'aula. Allontanate il collega Buonanno dall'aula, forza. Cara Mogherini, l'ultima volta che ho parlato con lei, il presidente Schulz mi ha dato 7 giorni di sospensione perché ho detto la verità. Avevo detto che lei non contava un emerito, non dico la parolaccia, se non ne prendo altri 7. Lei non è che non conta un emerito C. Lei non conta una beata minchia. Questa è la bandiera dell'ISIS. Bisogna avere il coraggio di dire che l'ISIS deve essere combattuta e distrutta. Bisogna distruggere questa gente. Molto più importante secondo loro di quello che riguarda la sicurezza dei cittadini, per loro è importante vedere se c'è il matrimonio tra lo stesso sesso, se c'è l'adozione tra lo stesso sesso, per cui invece di chiamarsi sinistra libertà si chiamassero sodomia e libertà. Perché no, cortesemente, deputato. Visto i risultati che ha avuto non nel Congo, dove mi piacerebbe che lei andasse e non tornasse più indietro, ma in Ucraina, dove è andata la Merkel a parlare poi con Putin su questo problema insieme a Hollande, lei conta un emerito, mi scusi il termine, cazzo, lei non conta nulla. Gianluca Buonanno, vabbè, un anno. Va bene ragazzi, dove andiamo? Pietro da Bologna. Comunque ragazzi, io sulla vicenda di Rina non mollo, caro Parenzo, non mollo. Ma non mollare tu, la Cassazione... Muoia, ma non me ne frega niente della Cassazione, decida quello che deve decidere. Posso ricordarti sommessamente a te e a tutti questi miserabili che adesso chiameranno l'800240024 che la... Come che te ne frega della Cassazione? Ma non me ne frega nulla. Viviamo in uno stato di diritto, non viviamo nel Qatar, amico mio, che se ne dica. Ma non me ne frega niente, a me di quello che decide la Cassazione, ne prendo atto. Ma la Cassazione è un principio fondamentale. centrale. Prego, mamma, uno può andare anche contro la Cassazione, non è che la Bibbia. Sì, vai pure contro la Cassazione, ma non andare contro, figurati, i principi che tengono in piedi questa nostra sgangherata democrazia. Parlo anche contro, cioè, il Papa, figuriamoci contro la Cassazione. Perdiamo, però non perdiamo il lume della ragione, non perdiamo lo stato di diritto. Ma cosa non c'entra? Ma ecco, cosa c'entra? Dicevo. Vabbè, dagli la pena di morte, allora. No, dai, uccidilo, fallo io fuori, sono dai. Contrario al fatto che venga scarcerato, come oggi sembra possibile, perché a 86 la Cassazione ha posto una questione. Lascia perdere, lo sappiamo, non mi interessa la Cassazione. Tu lo sai, quei 40, quelli 8 ebeti, perché tali sono, che telefono, perché quelli che ascoltano lo sanno e sono preparati, mi stanno scrivendo: bravo Parenzo, tieni il punto, tieni la barra, ma che siamo tieni in tanti, il punto, in galera, deve morire in galera adesso, deve morire in galera. Totorina, i lotti che telefoneranno diranno la cosa tua, quattro imbecilli, gli altri, cioè la maggioranza silenziosa di questo paese, sa che difendere lo stato di diritto, cioè difendere il diritto di un criminale, non fammi fare pannella, difendere il diritto di un criminale, il diritto di Rina, a morire in una condizione di salute dentro, non facciamo, ma scusi, ecco, diciamo, ma così, lei se ne occupa anche dal paradiso, ammalare il diritto. Io sono qui ormai da qualche anno, come sai, ho perso, sto Marco, raccogliendo le firme per la liberazione di Rina, per la liberazione di Rina, ma no, ma e candidarlo nel proporzionale. Ma no, ma come, come facemmo con Toni Negri? Tu lo ricorderai, noi radicali, liberali, liberisti, libertari, purtroppo, esperantiani, uomini del Mossad e della CIA, puttane, che candidammo Cicciolina in Parlamento, in un Parlamento di puttane, ricorda? Vabbè, sì. Candidammo Toni Negri, sì, quello, all'epoca condannato, purtroppo, che poi scappò, peraltro, sì, a Parigi, lo mise in quel posto, lui, sì, che e prese pure il vitalizio, ma nonostante questo noi applichiamo il diritto. Ma e qui dal paradiso, dove ci sono solo nuvole, c'è questo signore che si chiama signore, che continua a ridere, a dire: ma Marco, che fai? Dico, raccolgo le firme. Ma le firme per cosa? In paradiso, ho capito, ho detto addio, ma io devo raccogliere le firme per lo stato di diritto. Ma che c'entra il paradiso? Si sta ammalando il diritto in Italia. Ma cosa io c'entra? Lo vedo da ma qua adesso pure se Rina, Rina dovesse rimanere in carcere, dovesse morire in carcere, sarebbe un crimine. Ma no, ma e no, noi dal paradiso, dove io qua sono, purtroppo, non capisco, sto raccogliendo delle firme, dovete saperlo. Ma Dio che dice, Dio che dice? Non risponde, sta lì su una nuvola. Lo voglio abolire il paradiso. Ma che no, voglio abolire il paradiso, non serve a niente. Che c'è la partitocrazia pure là. Partitocrazia gestita da un signore solo, peraltro. Vabbè, ragazzi, dove andiamo? Andiamo da Bologna, Pietro, vai, forza. Allora, riguardo a Bonanno, che era un coglione in vita, poi dopo è morto. Fine. Ma vaffanculo, te, ma sarai coglione te, sarai. Allora, sarai coglione poi te. Dopo rimane, sì, e poi dopo rimane che molta ipocrisia sul terrorismo, perché ne ricordiamo anche quello che c'era stato in, c'è stato in Italia, quando si mettevano le bombe nelle stazioni di Bologna, non c'erano gli islamici. Ma che c'entra? Non c'erano gli islamici, ma allora cosa c'entra? Scusa, no, cosa dicendo, c'entra? È molto ipocrita, nel senso che questi sono dei coglioni, come terroristi, assassini, eccetera, eccetera, delle allora schede impazzite, eccetera, eccetera. Però quando c'è Trump che vende 110 miliardi di dollari ai criminali assassini dell'Arabia Saudita che bombardano lo Yemen, distruggono un paese, e lì ci sono migliaia di morti tra donne, bambini, uomini, nessuno se ne si lamenta che... No, ma questo è vero, questo bisognerebbe rompere i rapporti lamenta, con l'Arabia Saudita. Nessuno ne parla, però dopo ci vanno i Trump, ci vanno i Renzi, ci vanno gli Hollande o chi altro. No, ma bisognerebbe isolare... Allora, Pietro, fermati un attimo, bisognerebbe... Allora, ma stai calmo, ma non stai facendo il comizio. Allora, bisognerebbe isolare quei criminali carogne dell'Arabia Saudita. Adesso mi voglio mettere pure contro l'Arabia Saudita. Bravo, sì, quelle giusto, carogne dell'Arabia Saudita vanno isolate. C'hanno i soldi? Non me ne frega nulla. Ti ricattano? Non me ne frega nulla. Bisogna isolare quello stato di carogne, perché di questo carogne stiamo parlando. Beh, però per ora se ci aiutano a combattere carogna, l'ISIS, meglio. Sì, il governo inglese è carogna. Quando c'era da buttare giù Gheddafi, i jihadisti islamici gli andavano bene quando andavano a combattere contro Gheddafi in Libia. Vabbè, okay, ecco, questo, e la Turchia gli permetteva a quelli dell'ISIS di andare in, sì, Siria. Ma l'Occidente è fatto di grandi ipocrisie, non c'è dubbio, no, su questo. È fatto grandi criminali. Grandi criminali, sono meno criminali di altri. Sono filo nazista a Kiev. Filo nazista. Vabbè, Pietro, che cosa vuoi dire oltre questo? Sto dicendo che siamo dei grandi ipocriti. Ma perché hai detto I criminali assassini sono tra i nostri governi? No, ma ci sono sicuramente. Se diciamo, ci fidiamo più di questi assassini piuttosto che di altri assassini. E poi dopo ci aiutano. È meglio l'ipocrisia che si vuole immolare, ok? Qualche sempre qualche cretino, ma sembra che adesso tutto il mondo ha paura di questi ossessi, questi deficienti che se ne vanno in giro a coltellare la gente che passa. Però noi siamo complici di questi assassini, perché noi li finanziamo. Le scuole coraniche le abbiamo finanziate con i nostri servizi segreti. Boh, quali scuole coraniche? Nei talebani in Afghanistan, dove è iniziata la guerra, sono state le scuole coraniche tanti anni fa, in Afghanistan, finanziate dagli Stati Uniti, da Israele e dall'Arabia Saudita contro l'Unione Sovietica. No, Pietro, sì, è vero, all'epoca Israele avesse Sabina finito. Vercelli. Allora, comunque mi scrive Silvio, Silvio, Sabina, che non so Vercelli, come ha avuto il mio numero, questo sì, non so neanche chi sia. Mi scrive: la differenza tra noi e i mafiosi, torna al Temerina, forse è proprio quello di consentire una morte dignitosa. Te lo dico da siciliano, scrive Silvio, incazzato. Scusa se mi sono permesso, quindi concordo con te. Cioè, la differenza tra noi e i mafiosi è proprio quella di consentire una morte dignitosa. Uno Stato democratico di diritto fa questo. Questa è la grandezza della democrazia. Mi scrive giustamente un cronista, uno scrittore che si chiama Calasanzio, che dice: nonno e zio sono stati uccisi dagli amici di Rina. Il carcere italiano garantisce altissimi livelli di assistenza. Vabbè, questo è un altro discorso. Rina, colpevole come Hitler di grandi nefandezze. Ma ci sta i paragoni, no, cose ma diverse, è così, per noi è come se fosse un Hitler, è come se fosse una. Ma guarda, ci abbiamo avuto noi Mussolini, quindi non è che dobbiamo andarci allora, a cercare queste troppo persone lontano. Non voglio condannare la morte, anche se molti mi scrivono: andrebbe sciolto nell'acido, andrebbe ammazzato, vabbè, andrebbe decapitato. Ma che gente frequente. Ma lasciate, no, mi scrivono persone che non conosco, ma anche se li conoscessi non mi vergognerei per niente. Ma che gente frequente. Queste persone devono rimanere in galera, e dico in carcere con l'assistenza, eccetera. Muoiono in galera tranquillamente. Che differenza c'è? Giustamente oggi Gratteri dice: è gente che comanda anche con un battito di ciglia. Sì, questo è un altro discorso. Infatti, è gente che comanda, serio, è gente che dubbio. Comanda anche muovendo le mani, anche facendo tac, ma e scoppia una bomba, detto, anche, cioè, anche facendo tic in una struttura... e ammazzano una persona. Ma, infatti, oh, ma di che parliamo? Su questo, dai. Infatti, non c'è un po' di dubbio. Ma però allora ti ripeto, resti in carcere. Basta. L'ottimo Silvio, di cui non posso dire il cognome, non avevo il suo numero salvato sul telefono, da siciliano incazzato, dice e ha ragione che la differenza tra noi e loro, cioè tra lo Stato di diritto e i mafiosi, è esattamente. Ma che questa. Vuol dire? Da una in parte galera, c'è, resti lo in dice galera, Silvio Rina, e ha ragione. C'è in galera. La barbarie che dice da una il tuo amico Manconi? Che dice il tuo amico Manconi? Che fa la campagna Rina fuori dalla galera, il senatore Manconi? Adesso, perché è troppo scomodo farla su Rina la campagna. Adesso non è troppo scomodo. Ti ascolta, se mi sta ascoltando, lo abbraccio, ma gli dico: faccia coerentemente, lei che è garantista. Fa le più grandi battaglie, Manconi, in base. Difende pubblicità, il diritto. Pubblicità. Il diritto, non pubblicità. Le persone, il diritto difende. Galera e Rina. Sì, galera e Rina. È già Rina in galera. Scusa, è già in galera. Aspetta. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Ma è una roba pazzesca! Ciao Giuseppe, io ti voglio bene. Cruciani, io ti amo! Mi trovo in macchina, sentite un po' che faccio. Ragazze, c'è un problema, il presidente della maggioranza silenziosa non vuole che io venga con voi. Come? Bocca quanto? 10. No, ma non posso venire, il presidente non vuole. Questa? No, non posso, non posso. Ma non è qua! No, io non faccio parte della maggioranza silenziosa, ma bocca quanto fai? Bocca 10. Figa? 20. Aspetta un attimo, no, ma non posso, non faccio parte della maggioranza silenziosa, non posso. No. Come Macron! Come Macron! Ma che vuoi dire? Che vuoi dire a quell'appartenente alla maggioranza silenziosa, diciamo perfettina, che è tentato dalla mignotta? Cioè, cosa vuoi dire? Tu che guarda, sei come dire, amico, il presidente, certo, fagli una lettera aperta. Una lettera amico, la lettera aperta è molto semplice. Io capisco le tentazioni, però magari vai a casa, ti rilassi, abbracci la tua fidanzata, oppure corteggi una bella ragazza che hai incontrato al lavoro, la inviti fuori a cena, la porti a teatro o al cinema. E non cadere in queste tentazioni, non pagare le donne non sono merce. Vedrai che sarai contento che tu portali in un grande ristorante, magari un ristorante stellato, passa una bella serata, poi portala alla prima della Scala, insomma fai delle cose che ti facciano sentire un uomo. Non capisci un cazzo. Ma questo come fa lui dal paradiso? A... dal paradiso ogni tanto come si inserisce il pannellone. Leggo sul pregiato sito Dagospia, Parenzo, non so se sì. anche a te succedono le stesse sì. cose. Il cool, cioè il culo è sempre più cool. Ho capito. Ormai se la sera torni a casa e non offri il retro con leggerezza, sei una sfigata. Il sesso anale, nostro argomento per mesi è stato, il sesso anale il tuo, è sì. diventato, no anche tuo, indirettamente prima dell'epoca del Filippino. L'ho subito. Hai subito, sì. Il sesso anale è diventato sinonimo di liberazione sessuale. Dottore, oggi molto stanco, lavorato a lungo mattina, poi fatto piccolo pranzo a casa che ho preparato, tagliatelle con funghi polcini. Ora sto preparando cena, non vuole sentire le parole brutte, dottore, mi ha raccomandato oggi lavorare, intervenire perché molti miserabili il lunedì no. giornata miserabili, terribili. E anche signore Cluciani, il lunedì più eccitato del solito, no, mi ha detto dottore, perché ha passato la domenica, sabato e domenica a vedere Juve, e non c'erano donne, non ha fatto solito prelievino che in genere fa nel weekendino, e arriva allora il lunedì calico di ormoni e quindi fa passare tutte telefonate di polci miserabili. Quindi dottore ha chiesto impegno straordinario, dato per me 2 centesimi in più di aumento stipendio. Sono i 2 centesimi, dottore, così è. Comunque dicevo, se il sonale è diventato sinonimo di liberazione sessuale, se non lo fai o sei noiosa o scopi come una vecchia, e vabbè. C'è comunque chi fieramente tra le donne detesta e rifiuta il sesso anale. Non capisco come si faccia, però è così, ragazzi. Cioè, potremmo aprire un grande sondaggio nei prossimi giorni, un grandissimo sondaggio. E io insisto nel dire, Riina resti in galera. Non lo, lo devo dire proprio con forza, così, in galera. In no, ma non galera, c'è bisogno che tu. Che la Cassazione, non so chi altro, si fermi. La Cassazione ha posto una questione, una questione giuridica. Un oltraggio a tutte le famiglie degli uccisi della mafia e di tutti gli uccisi del mondo. Riina, sicuri. Beh, un oltraggio. Sicuri. No. Fino alla fine dei suoi giorni, che non speriamo sia. Ma, questo, ma non è, rimanga questo è una cosa scontata. Galera. Cioè, in carcere tu, ragazzi, non ci devi morire. È un paese, cioè, no, se anche, uno sta puoi anche male, morire in carcere, deve essere curato. Cioè, in quale allora, paese? Ragazzi, mica questo, siamo in Afghanistan. Questa eh? Ancora è l'Italia, dove un signore viene arrestato venerdì sera. È successo dalla polizia, incredibilmente ancora nella sua città, San Luca, in Calabria. Un boss dell'Andrangheta che si chiama Giorgi, è pizzicato dove? A casa sua. Questa è l'Italia ancora. Uno arrestato a casa sua in Calabria con la gente che gli faceva il baciamano. Cioè il baciamano intorno, questo, i carabinieri che gli dicevano, prego, prego, sì, aspetti un attimo. Sì, se vuole fare il baciamano. Il baciamano al capo dell'Andrangheta, questa è l'Italia e vogliono liberare Riina. E vogliono liberare Riina, ma beh, di che le due parliamo? Cose non hanno una relazione. Non c'è un Sabina Vercelli, vai, Sabina da Vercelli, dai. Ciao. Io sono d'accordo con te, per me Riina deve rimanere in carcere, sì. Morire dignitosamente ma in carcere, non può uscire, perché il diritto delle vittime e la certezza della pena dovrebbe essere la Cassazione. Sì, ma non è il punto questo, adesso ti sento no, anche male Sabina, il punto non è questo, il punto è che ci si può curare dignitosamente anche in galera. Cioè, questo è un altro resti aspetto. E sicuri in galera. Tu sai meglio di me che il 41 bis, adesso non entriamo nel carcere, merito. Signori, non mi interessano queste cose a me. Beh, Riina, il capo struttura... dei capi, resti in galera a curarsi, non me ne frega niente, fuori dal carcere, non ci va. Punto no, e basta, la Cassazione è un simbolo. Semplicemente che il malato, anche se in carcere, ha diritto a una morte dignitosa. Cioè la Cassazione si pone semplicemente un problema di rispetto delle leggi. Se non vi piacciono le leggi per cui un criminale anche incallito, condannato per reati gravissimi, se non vi piace questo, beh, in altri paesi ci sono altri sistemi. Ad esempio in Qatar c'è la lapidazione. C'è una vergogna, sai, dai. C'è ma che la lapidazione. C'entra la lapidazione, dai. Allora la Corte di Cassazione cos'è, Parenzo, che ha detto? Due punti. Sarà giusto, il tribunale giusto scarcerare Riina. No, questa è Parenzo due punti, punti. Sciocca la Zanzara. Senti, i titoli li faccio io. Sciocca la Zanzara. Allora, giusta la riflessione, no, della Cassazione, che rimanda al tribunale di sorveglianza e chiede al tribunale di sorveglianza di riesaminare la richiesta di scarcerazione. No, ma io capisco che la gente adesso sull'onda di da Napoli. Come vogliono scarcerare Rina? Non è così la questione. Fabio da Napoli. Beh, sì. Ciao Giuseppe. Ha riaperto il caso. Hanno riaperto il caso. Vai, dimmi. Ciao Giuseppe, sono Fabio, Bulgaria, puttane, case e noti. No, ma che cos'è sta roba? Non mi interessa, cos'è? Puttane. Vabbè, allora, non mi interessa, allora, ma chi sei? Ma che sei? Chi, di chi fai parte? Uno di quei siti là assurdi, no, su no, Facebook? No, no, che cazzo dici? Ti ho chiamato che ero andato in Bulgaria per andare a puttane a casino. Ah, ho capito. Ma ho capito benissimo, eri andato a puttane in Bulgaria, sì, è vero. Ma che motivo c'è di andare a puttane in Bulgaria? Sarà padrone di andare a puttane in Bulgaria? No. Uno si vergogna di dire queste cose, ma io non lo so. Mi stavo solo presentando. No, ecco, allora, sì, un bel biglietto di da visita al no, suo, però, complimenti. No, però scusami Fabio, io voglio capire una cosa. Vuoi mettere la differenza che c'è tra uno che chiama qui nella nostra trasmissione e dice io vado a puttare in Bulgaria e un altro che invece chiama e dice guarda io faccio l'imprenditore e vorrei parlare della delocalizzazione delle imprese. Ma di questo cioè, non ce ne frega una benevata mazza. Della differenza ma di del trattamento secondo che non ce ne frega una benevata ospiti. Fabio da Napoli, il suo precedente intervento, si era, come dire, dilungato sul suo investimento in Bulgaria. Anche quello è un investimento. Per esempio, perché andare in Bulgaria e non per esempio in un grande bordello di Milano, in un grande bordello di Napoli? Perché non apriamo 10 bordelli a Napoli? Non sarebbe costretto il signor Fabio a trasferire tutto in Bulgaria e a spendere soldi? Amico mio, ma non è un problema perché ci vado pure a Napoli, non è un problema. Sì, beh, io dicevo però pagando allo Stato con delle tasse, amico mio, tu a Napoli vai a puttane sicuramente e però come dire, in nero... Però ti volevo dire un'altra cosa, se mi permetti. Non vuoi parlare di puttane stasera? No, no, non ho problemi. Non posso dartene pure l'indirizzo di una dove sono stato 3 giorni fa, che è una femmina esagerata. In che senso esagerata? In che senso esagerata, Fabio? È una cubana rifatta. Una cubana. Una cubana rifatta. Ma ti rendi conto che storie? Ma non io è lo un metterei signore, a è confronto. Un maiale, il maiale, non chiamarlo signore. Ma signore si può mettere secondo te a confronto? Aspetta. Parenzo, dimmi. Tu lo fai solo ridere. Sì. E ti spiego perché. Perché tu hai parlato di prima alla Scala. Sì. Hai parlato di ristorante stellato. Sì. Ma scusa, io devo spendere 300-400 euro per farmi una minimo, scopata minimo. E non so nemmeno se la faccio, ma va a rubare. Beh, scusami Fabio, questo confronto però è eccezionale, diciamo, tra Parenzo che sostiene che bisogna portare una donna a un ristorante stellato alla prima della Scala e il signor Fabio da Napoli, sì, che giustamente ecco, ha piena ragione, dice ma io posso spendere per farmi una scopata con una dei soldi in un ristorante stellato, spendere no, ma anche se 300-400 euro, però Fabio. Vede la ricerca di un posto bello anche non stellato dove portare la cerca propria di amata, cerca di convertire Fabio. Sì, no, voglio provare a farle capire, ad esempio, anche un'attenzione, una piccola attenzione, un pensiero, un fiore, oppure ad esempio appunto invitarla a cena, ma non necessariamente. Ma questo ti usavo 80 anni fa, ma che stai dicendo? Parlato, mamma mia, ma tu hai il culo di essere famosa e quindi hai una bella donna vicino. No, ma Fabio è un obeso, ma no? Che c'entra obeso? Ma anche se l'ha detto lui l'altra volta che era obeso. No, capito, ma vabbè, un obeso, aspetta, però Fabio, aspetta che devo chiamare una persona, Fabio lì, aspetta un attimo. Vai, scusami un attimo, sto provando a chiamare una persona da 10 minuti e me la passano forse adesso. Aspetta un attimo. Cruciani, non fare il grande, sei un servo di merda, servo. La Zanzara. Allora, caro Parenzo, ti leggo questa notizia. Stavolta, se fossi stato in casa, avrei puntato al petto per ucciderli. Sono stanco di essere vittima. Non sono più disposto ad accettare che la mia famiglia sia in pericolo. È l'amaro sfogo di Giuseppe Mazzon, 61 anni, imprenditore di Sandrigo, residente in una villetta di via San Sisto, nella stessa località veneta. L'altra notte, provincia credo di Vicenza. L'altra notte, per la terza volta, finita nel menino dei ladri mentre la famiglia era in vacanza per 2 giorni. Capito? Mazzon vive armato in casa, la sua pistola fa parte del bottino del furto messo a segno nella notte, eccetera, eccetera. Il furto supera i 10.000 euro. Questo Mazzon, l'ho sentito nel pomeriggio, è una belva scatenata. Vabbè. È avvelenato. Parlaci anche in veneto, se puoi, David. Sì. Pronto? Sto parlando con Giuseppe Mazzon? Sì, sono qui. Buonasera, Giuseppe Cruciani, Radio 24, ecco. Salve. Come andiamo? Penso così, non so poi mia, no, mi penso. Scusi, ma qui le presento un signore che si chiama... Non si può mica. Esatto, dice. Tu traduci. Sì. Le presento un signore che si chiama Parenzo, lo conosce lei? Ma devo parlare in italiano o in dialetto? Tutte e due, insieme, quello che vuole lei. Come che te vuoi, caro? Sammy, come che te vuoi, come che te vuoi? Dai, forza, allora. Su, fa il mona, fa troppo il mona, su, demo. Scusami, Mazzon, ma qui c'è Parenzo, questo signore si chiama Parenzo, il quale spesso è dalla parte dei ladri. No. Questo non è vero, non è vero. Capito? Che dici? A che tipo è, no? Tipo capotto via pistola di ladri, no? Questo non lo capisco. E che fra un mese mi trovo un altro più grosso di quella che avevo. Ah sì, ho capito. Cioè il signore sostiene che adesso si compra una pistola più grande di quella che aveva. Ma ha ragione, sostiene. Perché quella gliel'hanno rubata, giusto? Giusto. E dopo di più grande di quella che trovo non c'è più niente dopo. Perché più grande di quella che trova non c'è più niente. C'è un cannone praticamente. E la prossima volta che si vede di fronte dei ladri, se mai dovesse incontrare dei ladri, che cosa fai, Giuseppe? Che tiro addosso per coparli. Diretto al petto, così, diretto. No, alla testa. Alla testa è meglio, sì. La testa è meglio. Ma tu hai fatto dei corsi di tiro? E dopo, se per caso lo finisce, mi do il colpo di grazia. Pure il colpo di grazia mi sembra giusto. No, cioè, se sopravvivono, sì. Vai lì e... Sì, perché se no mi tocca, con la legge in Italia, mi tocca mantenere la vita dopo, no? Ma sì, ma ragazzi, ma ha ragione il Mazzon, caro Parenzo, no, inutile che protegga. Ha ragione il Mazzon. Allora, quanti furti hai subito? Tre furti in 5 anni. Tre furti in 5 anni. Ma non è che questo giustifica sparare così... Quattro furti, aspetta, perché uno le sta fatto dalla Popolare di Vicenza anche. Che c'entra la Popolare di Vicenza? Perché ti hanno rubato i tuoi soldi pure. Ecco. Ma l'ultima volta che è successo? Quanto hanno rubato l'ultima volta? Sempre intorno sui 20-30 mila euro. In più? I valori, tutto. Adesso mi ha rubato circa intorno ai 20 mila euro perché avevo 4 mila euro di liquidi. Sì. Che dovevo pagare anche un po' il dentista. Sì. Poi? E poi coglierini, braccialetti, tutto, svuotata la casa. E c'era la pistola anche? Sì, con 65 colpi anche quella. Pure, che pistola era? Era una 38 Special. A tamburo. Ma tu sei anche cacciatore? Sono cacciatore, ex carabiniere. Pure. Beh, amico mio. Immagino che ti siano simpatici i signori vegani, no? Quelli che non mangiano carne. Esatto, bravo, quelli che non mangiano carne. Ottima esattamente. Sintesi. Ecco, sì. Che concetto, che idea hai dei signori vegani? Che idea tu? Che abbia? Mi auguro che i crepa. Ecco, sempre molto. Ah, sempre di giudizio. Traduci, molto vuoi tradurre? Mi auguro che muoiano. Ecco, se uno è vegano, beasso che mai insalata, che cosa che cazzo che vuoi. Ecco. Se uno va a caccia, paga il suo regolo e tutto. Nessuno è qui che dice vivi e lascia vivere. Vecchio pragmatismo veneto. Ma certo, ma ragazzi, ma questo è il pragmatismo veneto, come sì, dici però, tu. Capito, è la realtà. Io. È uno attaccato alla realtà. Mica fa i sogni pindarici. Non vuole un mondo migliore. Non vuole un mondo più giusto. Che poi più giusto non sarebbe. Lui è. Dice: io vado a caccia. Se entra un ladro dentro casa mia, sparo e lo ammazzo. Vado a caccia, ammazzo e mangio la carne. Ma che cosa c'è di altro, di più normale, Parenzo? Cosa c'è di più normale? No, ma a me stupiscono le modalità. Questo che invita a sparare, che si compra il fucile più grande, cioè mi pare. E la prossima pistola che compri qual è, Giuseppe? Com'è? La prossima pistola che compri qual è? Una semiautomatica. Una semiautomatica, ma non c'è da vantarsi di a questa roba. A canna lunga, perché la traiettoria è più perfetta. Sei bravo a sparare oppure hai bisogno ogni tanto di aggiornarti, di prendere delle lezioni? Lo tiratore scelto sui carabinieri. Amico mio, ma io sei il mio idolo assoluto. Ma tiratore è un idolo? È un idolo, perché non ha paura di dire quello che pensa. Ma non ha paura, è un invito a sparare. Non è un invito, lo fa lui. Gli altri come dovrebbero comportarsi secondo te? Ci vogliono più armi in Italia? No, in Italia bisogna intanto eliminare questi politici, eliminarli fuori, una marcia su Roma per darli via. Questi ladri, questi non conta niente, questi non siamo tutelati i politici. Ma cosa dice? Marcia su Roma, ma cosa dice? Come diceva lui? Perché io quello che mi dà contro. No, ma non è che do contro, io no. Ma si rende conto di quel che dice? Aspetta. Marcia su Roma, ma via i politici. Ma no, ma perché in realtà li abbiamo i politici e i giudici non siamo più tutelati. I carabinieri non possono più fare niente, la polizia non può più fare niente. Un bel colpo di Stato, Femo, un bel colpo di Stato, avanti. Qui, i coglioni si sono morti nella guerra, poi avanti. Scusami, ma era meglio quando c'era mi lui, dunque, per no? Il Veneto, perché il Veneto non era è stato meglio qua. Quando c'era lui una volta, o no? 5 mesi di lui ci vorrebbe adesso. Ci vorrebbero 5 mesi? E ancora. Di quello che gli occupa. Del pelatone, no? pelatone. Ma sto qua è un pazzo scatenato, questo qua. Allora. Ah, voi coglioni ci vanno, ragazzi. Ma come mai? Capisce, perché c'è quello? Mi faccio me, a conta che lavorava a 14 anni, mi faccio un culo che non finisce più. Era da agosto che non andavo via e guido la moglie, se fermo due notti via. Fermo sulle biciclette, andiamo a cavole, andiamo a mangiarsi il pesce sui casoni. Sono stato via due notti perché sono portato a casa. Questa è l'Italia che è buona. Scusa, ma tu ai politici che faresti? Ma sì, perché c'è più ladri di qui che se entra sabato a casa mia. Tutti al muro? Non dico il muro, magari vado sul forno crematorio, ragazzi. Se ti ritrovassi di fronte questi ladri, che fa senza pistola, che faresti di fronte a un ladro? O mio io. Con le mani, addosso. No, o mani, o coltello, o mio ti. Ma secondo te ci sono troppi... Una domanda credo che sia abbastanza semplice la risposta. Ecco, ci sono troppi immigrati in Italia? Eccola. Il negretto non è entrato ieri a casa mia. Il negretto spaccia marijuana, spaccia la droga, è stupido il negretto. E chi è entrato? È stupido, certo. Parmise, bande dell'est, rumeni, albanesi. Rom. Oh sì. Anche rom. Ma questa immigrazione, come la vedi? Dentro. Che faresti dei rom, per esempio? Qui ho letto sul giornale Vicenza che gli paga l'acqua, o te via entro 10 minuti, se no ti abbaracca, te salti alto. Tutto in aria. E gli immigrati clandestini che arrivano in Italia? In mezzo al mare, a Salia. Ci vorrebbero 5 mesi del pelatone, diciamo. Ma anche meno, forse. Certo. Anche meno, c'è un uomo forte che raddrizza tutto. Anche Tito? Anche Tito chi? Ah, Tito. Tito quello comunista. Tito, da Jugoslavia, Tito. Lei vuole un dittatore, insomma si capisce che qual è la sua formazione. Anche il baffino, per esempio, il signor Hitler. Quello gli ammazza pesante. Quello è stato pesante. Un po' pesante, dice, la valutazione storica. Cioè, per esempio, no? I forni... Il nostro De Felice, no? Il nostro storico. Dice, quello è stato un per esempio, pesante. Ha fatto i forni crematori con gli ebrei, per esempio, no? Quello non va mica bene. Meno male. Non va bene quello. Meno male. Che anche lui però, su ragazzi, come che si può in Italia, va che... Io un cuoco perso tutta la giornata tra carabinieri e questo e quello, perché ha paura della pistola adesso, no? Me l'hanno rubata a casa mia, ho tutte le infiliate nel piano terra. Bene, ottimo. Adesso finché non ricompri la pistola, ho che fai? Ho due porte e sono blindate. Sì. E la pistola era sull'armadio, in camera, sotto chiave. E mi ha detto che ho lasciato l'arma incustodita. Ho detto, ah, adesso ti vogliono rompere pure i coglioni su questo. Però, amico mio, se la prossima volta che vado al mare mi metto la pistola davanti sul costume e vado in spiaggia. No, ma bisogna, ci sono, però scusi professore, perché ci sono delle regole per custodire delle armi. Ma di quel capito, tipo. Ma che adesso non è che lo incriminano. Certo. Gli hanno rubato 20.000 euro la pistola e lo incriminano perché ha lasciato la pistola dentro al coso. Ci sono delle regole. Scusa, ho lasciato l'arma incustodita. Ha sbagliato. Mi dispiace, ma ha sbagliato. Ma no, ma chi ha sbagliato? Dice lei, Parenzo, che hai sbagliato. Lei, ma no, è inutile che rincari la dose. Lei ha sbagliato. Parenzo dice che lei ha sbagliato a tenere l'arma incustodita. Sì, lo dice Parenzo, esatto. Lei ha sbagliato. Ma come chi sei? So mi, so Parenzo. E ti dico che te che hai sbagliato. Scusa, poi ti troviamo fuori dai coglioni lui. Ma adesso, ma che modo è questo? Adesso questo. No, scusi, c'è poco da ridere. Le armi vanno custodite secondo le regole. Regole. Porte blindate, inferriate, dentro sono armadio, chiusa a chiave. Più di questo. Un armadio la pistola e su un altro armadio le cartucce. Evidentemente non è un modo sicuro per custodirla, perché vanno custodite in cassaforte, evidentemente. Rispondi di bene. Ma scusa, ma tiro via il microfono che il personaggio lì potrebbe essere. Beh, sulla pistola evidentemente è colpevole. Ma che lui, quello sì. La teneva dentro l'armadio? La pistola era custodita come doveva essere. E allora perché i carabinieri dicono perché di no? Perché dico 8 fucili. E quindi sui mobili tutto costruito sotto chiave, tutto quanto. E perché, tutto dicono, regolare. Perché dicono di noi carabinieri? Se i carabinieri dicono che non era custodita secondo le regole, mi dispiace, amico mio. Non era custodita. Ma secondo... che disegna anche tanto le regole, io dico, ma che se comunque. Ma se ti pare che le sa lui, non le sa i carabinieri. Pensa a te. Vabbè, te che sbaglia. Ma no, non ha sbagliato. No, ma non ha sbagliato. Altro. No, ma scusa, dove sei che la radio lì? Radio 24. Radio 24, caro. E dove sei de base? Dove Milano, sei? Milano. Però è su Milano, trovate. Vabbè. Beh, questo. Non mi dici ancora che l'arma ieri è custodita? È a Roma lui, ti do anche l'indirizzo se vuoi, a Roma. Sto a Milano. Io ho fatto militare io a Milano. Ecco, bravo, Viale Monterosa. No, lui è a Roma. No, Roma è chiusa la sede. Viale Monterosa. Viale Vincenzo Monti. Sì, ma lui bravo, è là vicino. Quel signore Viale Monterosa. Il signore che ti attacca è a Roma. No, quartiere Prati. Ma io ho l'accento del nord, peraltro. Come faccio a stare a Roma? Giuseppe, mandalo a fanculo questo qua, dai. Ma mi penso che scherza che il tipo io. No, dice sul serio, non scherzo purtroppo. Manco per niente. Parla sul serio. Sì, parla sul serio, mandalo a fare il culo, ti prego, dai. Certo. No, scusa, magari lo paghi anche, no? Sì, anche sì. Abbastanza bene. Sì, lo pagano, sì, lo pagano. No, sì. Metti in mezzo una strada, uno così. Ma è gentile questo. Ciao Giuseppe, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. La Zanzara. Sono divorziato dopo 17 anni e volevo fare un viaggio a buttare soldi. Casino e puttane, questa era la mia. E hai scelto Sofia? Hai scelto Sofia? Ho scelto Sofia che non si paga un cazzo. Ok? Volevo dire questo. Allora, io ho iniziato il mio rapporto che ero 70 kg, era un ballerino. E facevo il ballerino latino e scopavo notte e giorno. Ho finito il mio rapporto che sono 140 kg e sono ipovedente. Né chi cazzo me la dà una donna a me? Parenzo? Questo è il numero uno. Ma allora, magari sei anche mini dotato. No, sei un bel cazzo, non ti preoccupare. Questi dialoghi, capito? Questi dialoghi. Ma è una roba pazzesca! È una roba pazzesca, direttore! Allora, Fabio da Napoli. Chi manderà stasera il signore, il direttore in qualche stazione di notte? Chi manderà questa sera? Chi manderà? Comunque nessuno mi toglie dalla testa e quella è una situazione un po', come dire, ecco, un po' allestita d'arte, diciamo. No, allestita no, però d'arte. È chiaro che se tu domandi qualcuno lì è un po' pericoloso, con la telecamera peraltro. Dici, scusi, cosa sta facendo lei? Ma io spaccio droga, vai via, vai via. È abbastanza normale però che succeda, no? Cioè, Cioè, non diciamo che se l'è cercata la Santanchè. No, poi bisogna vedere quello che è successo concretamente alla signora Santanchè in quell'occasione. Comunque è un gran format questo di manda il politico nei posti. Intanto perché risparmi sull'inviato. Sì, quindi sì, anche questo no, è un'ottima, è un ottimo format. E poi perché lo menano? Cioè 9 su 10 anche lì succede che ti menano. Quindi. Allora, Fabio da Napoli è il signore che ha scelto la Bulgaria per risolvere un problema, per risolvere un problema. Tu non gli vuoi riconoscere questa facoltà. Io gli posso suggerire la facoltà di Fabio da Napoli di risolvere i suoi problemi personali, sessuali. Io penso che lui possa trarre maggiore soddisfazione dall'avere un po' di amore per se stesso. Ma magari lo hai in questo modo, no? Come dire, ritrovare, riscoprire il piacere di corteggiare una donna. Fabio, rispondi tu, ti prego. È rispondi. Solo una cazzo di perdita di tempo. Ma tu cosa non dici? Tu dormi, tu non dormi, dormo tu per niente io. Stai sulle nuvole perché tu vivi una vita agiata. Ma cosa hai c'entra agiata o non agiata? Ma non c'entra niente. C'entra niente, non ce l'ho. Puoi permettere tutto il cazzo che ma vuoi. Che permettere? Ma guarda che i gesti di tenerezza, basta anche poco, basta anche cogliere un fiore. Rubi un fiore al cimitero, ad esempio, non gli dica che l'ha rubato al cimitero, vada al cimitero, rubi un fiore, tanto insomma, nessuno dei morti in questa maniera, amico mio. Oppure vada, ma insomma, un bel fiore lo può regalare, no? No, ma allora vada, anziché rubare un fiore, giustamente lei mi oppone delle obiezioni giuste, allora compri un fiore, ma non 12 rose rosse, 24, 100, 24, e a chi lo porto, allora, corteggi una donna, cominci ad apprezzare quella cosa straordinaria che magari può essere il mandarle un messaggio, che può essere il dirle, ma senti, ma ho trovato questo posto carino, questa trattoria sei di provincia dove posso... Noioso è lei, noioso e miserabile. Fabio, ma tu volevi intervenire sul tema sempre della prostituzione? Lei usa i suoi soldi per andare a prostitute, mi pare una cosa vergognosa. Ma perché è vergognosa? E poi dice che non hai i soldi, ma usi quei soldi per corteggiare una ragazza, no? Una fidanzata. Ma una non la vuole corteggiare, vuole andare a puttane in Bulgaria. Ma cazzarola, ma tu stai parlando di prima alla Scala, ristorante sperlato. Scusa, quanto poi... pesi tu, ma amico, no, mio? Quanto pesi? Io sono sceso 10 kg, vabbè, ma è. Sei non sceso a un cinema, la porti al cinema. Sei il mercoledì sceso a 110? Sera, no, sono sceso di 10. No, da quanto? Da 140 a 130. Beh, amico mio, però 130 è assai, eh. 130 è anche difficile trovare. Ma no, Peppe, ma è rilevante. Perché tu puoi avere anche un po'. fascino e io ne ho da vendere, però ci vuole femmina che non ci stanno. Anzi, io dopo la puntata in cui sono intervenito, ho visto sul sito che c'è un'associazione femministe, di femministe, mi volevano denunciare, ma che me la diano invece di denunciarmi. Vabbè, sono d'accordo. Che discorso è questo? Cosa dici tu qua? Cioè, ma non è che te la danno così perché se ma c'è un discorso. Senti, ma la cubana, a proposito, qua ci sono persone che in diretta praticamente mi chiedono, non posso dire chi, la cubana, vogliamo sapere della cubana rifatta, amico mio. Adesso tu non so se volevi intervenire sarà su questo o su un altro tema. Cannuna, però apriamo una parente, come diceva Frassico una volta, apriamo una parente. Sì. Volevi parlare di questo o di altro tu? Della prostituzione o di altro? No, io volevo parlare di sì. Igor il Serbo, che io sono che un suo fan. Come un fan di Igor il Serbo? Come si fa a essere cioè, ma ti rendi conto come fa? Questo non potrà mai avere una fidanzata. Ma questo metterà paura anche alle prostitute ma se no, gli dice che è un fan di Igor. Se ho il tempo di spiegare, visto che sto parlando da tempo, se mi dai 5 minuti. Beh, 5, adesso, 5 mi sembra esagerato, però vai, proviamoci. Dai, ma allora, spiegare poi. Igor il Serbo, allora in Italia ci dovrebbe essere la meritocrazia. Ognuno fa il cazzo che vuole e si assume la responsabilità di quello che fa. Se due persone, pace all'anima loro, avevano una pistola in mano e sono stati uccisi perché avevano una pistola in mano, significa o che lui era troppo bravo e gliel'ha levata da mano o che loro non erano in grado di tenerla. Ok? Allora questa è una questione. Non ho capito perché è diventato il tuo idolo, però adesso al di là delle indagini no, queste cose idolo, non ce ne frega nulla. No idolo, perché è una persona spregevole, però se lui lo mette in culo a tutto quello che sta succedendo, tutta questa cosa. Ma è l'elogio del delinquente, però del bandito. Non è l'elogio del delinquente, è l'elogio della povertà di questa nazione, che 10.000 uomini non sono stati in grado di prendere a un cristiano. Ma stai scherzando? Però Fabio, scusa, torniamo all'argomento principe. Vorrei capire bene questa storia della cubana. Che cosa aveva di particolare questa puttana cubana che tu frequenti? Scusami. No, non la frequento, ci sono andato una volta no, perché io vario onestamente, visto che pago vario, non è che e vabbè, giusto questo, anche questo è giusto, vari eccetera. Questa cubana cosa ha di particolare? Tu dici tutta rifatta, No, c'ha le tizze rifatte, dice sul sito sta scritto ha 22 anni, invece ne avrà almeno 35-40. Vabbè, allora t'ha fregato, scusa, avevo capito. Cioè... No, è figa, non me ne fotte un cazzo. Io, tra l'altro, a me le ragazze giovani non piacciono, quindi non è. Sì, non signor Fabio da Napoli, caro Parenzo, tifa per Igor il Serbo, ti piace 130 kg. Ma ti piace così tanto sto qua? No, mi ma è un personaggio incredibile, cioè un personaggio talmente vero, dice che pesa 130 kg. Nell'ordine, riassumo in 10 secondi, 130 kg, non vuole pagare cene a fidanzate, eccetera, eccetera, va in Bulgaria a mignotte. Tifa per Igor il Serbo, non sopporta le femministe, mi sembra di capire, caro Fabio, e poi un'altra cosa che ha detto me la sono scordata, ragazzi, questo è Fabio da Napoli, 130 kg di cristiano, o sbaglio? È così, onestamente. Certe volte pago anche i miei soldi e me ne vado soddisfatto, non me ne fosse, sono stato anche un massaggio cinese. Svario, mi diverto, non ho problemi. Però io le dico solo in chiusura di questa nostra piccola conversazione che se lei usasse i suoi soldi, che dice di averne pochi, e li investisse in un rapporto duraturo. No, io non ho detto che ne ho pochi. Parezzo. E allora che cosa vuole da me? Detto, lei, io le sto consigliando per la sua vita, che altrimenti lei è una persona molto sola. È una ma persona chi sola. Detto? Cioè, se ma lei... chi cazzo te l'ha detto? No, voglio dire, se lei si accontenta di quella manina del voglio massaggio romantico, ecco, se lei si accontenta di quella manina del massaggio romantico della famosa signora Federica, altrimenti detta la mano amica, lei rimane una persona sola e anche miserabile, capito? Un miserabile, perché invece il rapporto con una donna è costruzione di un affetto, di un'intesa, sei la prima puttana mediatica della televisione italiana. Tu, caro Parenzo, tu sei una puttana mediatica. Vabbè, questo è su mediatica. Sì, perché tu di base non sei un cazzo, sei in grado di leggere un libro, ti vedi benissimo. Beh, anche se questo sì. Vabbè, ma che c'entra questo, Fabio? Adesso perché devi spostare l'attenzione? Scusa, perché sposta l'attenzione rispetto all'uso che lei fa del suo denaro, e anche con orgoglio viene qui a rivendicarlo nella più importante radio italiana davanti a 2 milioni e mezzo di ascoltatori. Dimmi. Ma non si vergogna. Io voglio capire. Ma non si vergogna. Sai, per esempio, tu sei, cioè, a favore del modello tedesco, Fabio? Questo è interessante. Capi? Sì, ecco, esatto. Questo è tu bello. Sai la legge elettorale, il modello, sì, tedesco, il sai qualcosa? Senti, al 5%. Io nel mio piccolo sono laureato in scienze, no, della politica. Ma no, no, ma va benissimo, ma è per capire. No, ma non era per pigliarti per il culo. Se le interessa. Ti interessa il modello tedesco? Senti, dobbiamo parlare di questo. È meglio a Cuba, è meglio a Cuba. No, è una cacata, perché non è stato diciamo copiato alla lettera, quindi è una cacata, è stato copiato, giusto, per l'esigenza dei quattro cristiani che vogliono andare, bravo, al governo. Bravo. Beh, questo è giusto. Aspetta, è molto giusto. Intanto, nell'intervallo prima ci hai passato il numero della signora cubana. Vediamo un po' se, sì, prende questo numero da sta cubana. No, come lo vedo? Voglio verificare se è vero, perché io voglio verificare tutto bene. La puttana cubana chiamata da Fabio da Napoli, sì, coinvolta in questi giochi, diciamo, anche di segreteria telefonica. Niente, c'è la segreteria telefonica, amico mio. Devo controllare bene se sta cubana esiste. Ciao Fabio, ciao. Ciao. Come sta scopando? Vai Tony, vai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo, buonasera. Sono 2 ore che sto al telefono, ragazzi. Vai Tony, dimmi. Senti, no, niente, volevo dire soltanto una cosa. Parenzo, facciamo un esempio, una cazzata. Facciamo finta che tu non fai di cognome Parenzo, ma fai di cognome di Matteo. Sì. Te squagliano il figlio dentro al cemento. Sì. Brusca sta in carcere, no? Un, sì, giorno si ammala Brusca, sì, e decidono di metterlo fuori. Tu come la prenderesti? La prenderei sicuramente sul piano personale non male, malissimo, però... è stra evidente. Io sto facendo il metro di giudizio, non può essere quello. La questione è molto semplice: 86 anni, Rina, malato? Sicuramente sì. La domanda deve essere un'altra: sta per morire. La domanda deve essere un'altra: per quali tipi di diritti, per quali tipi di delitti non ci devono essere? No, la mia domanda è un'altra che le faccio: per quali tipi di delitti va esclusa in modo categorico la possibilità di morire? Non in carcere, mai domiciliari. L'unica domanda che voglio fare: un pluriergastolano come Rina deve rimanere in galera. Ma giustamente, però, con questo, scusami, con questo. Sì, prego, scusi. Perché queste sono persone che hanno avuto lo sbaglio di stare sulla terra. Non sono d'accordo, non c'è dubbio, ma questo chi è che può difendere questi criminali? Perché nel momento in cui mettono le bombe che sulla strada, Dio, in Sicilia, non hanno Dio, non hanno un credo. Nel momento in cui mettono le bombe, anch'io non credo, e fanno saltare Falcone e Borsellino, la scorta, le famiglie che piangono, passano gli anni e tutto quanto, ma perché sta male lo dobbiamo rimettere fuori? Non significa rimetterla fuori, perché a 90 anni... andrà a dare a mangiare ai piccioni nei giardinetti, ma no, non esiste proprio come principio, perché delle volte nella vita si fanno delle cose che non ammettono una seconda chance, non ti permettono assolutamente di giudicare. Ma infatti ha ragione. Non c'è da riabilitare nessuno, cioè Rina non deve significa, ma infatti Rina, mi scusi, Tony, vai all'attacco, non ma mollare Rina, la preda, nessuno lo vuole riabilitare, non mollare la preda. Adesso, Tony, mordi la sua arguta metafora, l'ho capita, ma qui il problema non è di riabilitare De Mita, la fortuna di poter parlare tutti i giorni. Non ti fare irretire dai discorsi filosofici, Tony, ma lascia perdere il contraddittorio. Non ti fare irretire dai suoi discorsi, tutti da professore. Attenta, vai all'attacco, fai pesare Rina, mafioso, le vittime. All'attacco. Finale. Cruciale, do la botta finale. Allora, Hitler, Mussolini, già detto prima, è morto, ammazzato e tutto quanto. Detto, ma si è vista che Hitler stava in galera. E tutto, dopo quello che ha fatto, Mussolini, la stessa cosa, stava in galera. Cambiamo la storia. Fa male e tutto quanto. Che famo? Eticamente, politicamente giusto, bisogna metterlo fuori, perché ma questi devono crepare, devono lì, solo devono mangiare i vermi, manco si rimangono, risputano le ossa. Signor Vabbè. Toni da Roma. Difficile interloquire con questo signore. Beh, ma non si può interloquire con comunque niente accordo in Rai sul nome del direttore generale. Chi se ne frega, dire ma ce ne sbattiamo i coglioni. Intanto ce l'ho buttata là, così tra un Rina e una pornostar abbiamo buttato sta roba. Niente, mi feci fa un pompelmo da era un fiato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trans, David sta andando a trans, non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trans, David sta andando a trans, David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con Ezebal. Ah, e vabbè, vanno a trans, se si divertono a prenderlo a quel posto, che io... La Zanzara. Cruciani, chiama pure i medici. Io è qualche giorno che ad Alfano ci penso, per un motivo semplice, che se va bene ce lo leviamo dai coglioni! Renzo, ma ti pare normale che noi dipendenti dobbiamo lavorare almeno 15 anni per avere la pensione e questi qua in Parlamento fanno un giorno, una settimana o addirittura non ci vanno proprio e prendono le pensioni così alte? Ma vergognati! Erba calabrese produzione propria. La Zanzara. Poca figa massaggio. Ah, ma sì, dai. Quasi quasi mi faccio un seghino prima di uscire. Dai, su una cosa veloce. Punto google.it Carmelo Zuccaro, mettiamo la sua immagine a sinistra, Alfano rischia di star fuori dal Parlamento. Ah sì, questo bell'articolo sulla destra. Ok, partiamo. Zuccaro, Alfano, Alfano fuori. Dottore, dottore, clolato sulla sedia. Clolato, clolato proprio, clolato, svenuto, bianco, bianco come un cencio, dottore, svenuto, clolato. Dimmi se non è un genio questo. No, questo è un genio assoluto. Imbecille. Allora, quotidiano libero.it. Che ero fatto il sondaggio sulla Boldrini? Mette la foto di Romano Prodi. Sì, sì, sì. No, attenzione, sì, questo è interessante. Dimmi. Titolo: odor di mortadella. E già qua uno dice, vabbè, l'Italia piomba nel terrore. Cioè, cazzo, che cosa è successo? No? Un attentato. L'Italia piomba nel terrore. Esatto, un virus, un virus. Qualcosa di drammatico. L'Italia piomba nel terrore. Due punti. Prodi ancora premier. Punto. La non conferma in questa sua frase aperta parentesi da brividi. Ma di cosa? Ma perché? Ma di che cosa parlate? Poi ancora premier. Se c'è una certezza. La frase è questa. Posso chiudere la tenda fuori dal PD e rimettermi in cammino. Cioè, però sì, ha detto semplicemente questo. No, poi soprattutto se c'è una certezza nella politica, una, poi sì, che Prodi non sarà mai più presidente, esatto, del Consiglio. Esattamente. Mai più. Purtroppo, c'è una certezza. Io dico, beh, da parte io mia, dico per fortuna. Però il dico, miglior premier, vabbè, che abbiamo avuto degli lasciamo ultimi perdere anni. Adesso, sì, ma il titolo, odor di mortadella, foto di Prodi, sì, sì. L'Italia piomba nel terrore. Ragazzi. Ma perché poi? Ma perché? Ragazzi miei. Comunque ragazzi, il nome di Totorina ancora in qualche modo provoca scombussolamenti e soprattutto c'è un sacco di gente che si chiama Rina in Italia, caro Parenzo. Il nome Rina, Rina, Totò Rina, ma la gente non si vergogna per esempio a chiamarsi Rina. Se no, tu ti chiamassi Rina ti vergogneresti, cambieresti magari in Riona, sì, in Roina, in Rina, semplicemente eroina, Rina Giovanni magari. O eroina, no, beh, insomma eroina può anche avere un significato ambiguo. No, è vero, sì. Comunque in, che ne so, Roma, Rona, qualsiasi cosa che non sia Rina. Cioè se tu vai, ti presenti da qualcuno, ti chiami Rina, sì, come minimo, sì, ti controllano, sì, la polizia, i carabinieri, eccetera. Qualche, cioè, fastidio, qualche, sì, fastidio ce l'hai. Allora, non è meglio cambiare come se cognome? Uno si chiama Bin Laden, insomma, qualche esatto problemino. Non è meglio avere cambiare cognome? Beh, sarebbe, e sì, vediamo che succede in Italia. Sentiamo. Pronto? Sì, buonasera signora. Rina? Desidera? E parlo con la famiglia Rina? Ho detto desidera. Io le ho posto una domanda. Io chiamo dal comune di Palermo. Le ho chiesto se parlo con la famiglia Rina. Parla con la famiglia Rina. Allora, il suo cognome, signora, rientra tra quelli che il comune vorrebbe cambiare, modificare. Basta una voce. Beh, diciamo che il cognome Rina è un cognome decisamente ingombrante. Ma non ci interessa proprio, non ci tocca. È una questione di decoro, signora. No, no, no, non ci interessa. Non prova vergogna a Ma perché devo provare per vergogna? Deve provare più vergogna lei che lo sta dicendo. Ma signora, ma sta scherzando? Rina. Un impiegato comunale come lei? Signora, Rina rimanda. Ma per favore, signora. Come si chiama di cognome lei? Russo, signora, mi chiamo Russo. Come? Russo? Russo? Sì, signora, allora no, io le. Noi ci chiamiamo così, ci va bene questo cognome, non vogliamo cambiarlo. Signora, ma... però è un cognome che crea. Genera problemi il suo cognome, signora. Andrebbe modificato. Il cognome non genera problemi, completamente. Guardi, basta una vocale, da Rina a Rana. Ma che cosa sta dicendo? Io ora la denuncio a lei. Ma signora mia, lei denunci quanto vuole, io le faccio un favore, le dico ma di cambiare. Nome. Ma signora, crea un evidente imbarazzo. Ma il suo... quale imbarazzo? Ma che sta dicendo? Come l'altro giorno con Mussolini, che dovevano chiamare Massolini, Messolini, ognuno ha il suo cognome. Signora, è un cognome pesantissimo, andrebbe... Ma pesantissimo, è pesantissimo, è il mio cognome. Signora, il cognome di mio padre, il cognome di mio nonno e del mio bisnonno. Ma signora, bisognerebbe... crea problemi al decoro della città. Ma sì, signora, è evidente. Ma che cosa sta dicendo? E lei mi dica il suo cognome, qual è? Ancora. Per quale motivo sta chiamando? Io l'ho detto, mi chiamo Russo, chiamo dal comune, dall'ufficio cambio cognome anagrafico e le dico, signora, il suo cognome andrebbe cambiato perché è una vergogna. Oh. Lei chiama dal... Ma signora, ma è pure sorda. Ma che cosa sta dicendo? Il mio cognome non lo voglio cambiare. Pronto? Il vostro cognome è una vergogna, va cambiato. Che cosa? Dobbiamo modificare il nostro cognome? Ma per il... quale motivo? Beh, non mi dica che Rina è un bel cognome. Buonasera e non si permetta più a chiamare. Vergognati, testa di cazzo, ora che sei altro. Naturalmente. Come lottava la signora? Come lottava la signora? Beh, da un certo punto di vista c'aveva anche ragione. Però poi fastidioso quel messo comunale. Sì, quel messo comunale è fastidioso. Poi non so perché si ripete tra diverse città. Cioè si trasferisce. Sì, sempre lui. Si trasferisce in diverse città. Ma cosa fa? No, ma infatti. No, comunque, detto questo, effettivamente, ragazzi, se uno si chiamasse Rina dovrebbe cambiare cognome. Dai, Rina non è bello. Non è bello chiamarsi Rina. Non è bello. Ma amico mio, non è bello, dai. Uno si chiama Rina, cambia cognome, no? Cioè, cambia cognome, ti chiama in un altro modo anche per comodità di vita, no? Per non ricevere una telefonata da parte del messo comunale che ti rompe i coglioni, per non essere fermato all'aeroporto e uno ti guarda in faccia e dici Rina. No, su questo siamo d'accordo. Però è anche disdicevole chiamarsi Donato da Varese, Mauro no, D'Amanto. Che c'è tanto adesso, paragonando con i mafiosi, Mauro D'Amanto. No, mafiosi, però se tu dici, ti chiami Mauro, chiamarsi Mauro da Mantova in città, ti guarda. Se ti chiami così, alla lo fine. Lo sai che gli hai dato del cesso? L'altro giorno è imbufalito perché gli hai dato del cesso a pedali. Sì. A pedali, certo. Naturalmente. Claudio da Pisa, vai, Claudio. A pedali. Ciao, Cruciani. Claudio, senti? Dimmi. Sì, dimmi. Ascolta, io ti volevo dire una cosa. Io non sono gioventino, vabbè, ma mi dissocio da quelle teste di cazzo che pregano morte agli gioventini. Bravo. Questo vabbè. Allora bravo, lo dico subito. Ti fa onore. Bravo. A proposito di Pisa, aspetta un secondo. Fermo, bloccati un secondo. A proposito di Pisa e a proposito di Juventus, c'è un signore che è il prefetto di Pisa. E ti dico il prefetto di Pisa. Caspita, certo, importante. Il prefetto di Pisa, il quale è tifosissimo dell'Inter. Tifosissimo dell'Inter, a un certo punto se n'è uscito. Aspetta, che vado a recuperare la cosa. Le parfait, no? Eccolo dai, qua. Dai, prefetto interista parfait. Fa un post su Facebook, Juve all'obitorio, poi lo cancella. Credo. Capito? Prefetto interista fa un post su Facebook, un prefetto, Juve all'obitorio, poi lo cancella. Cioè, la passione calcistica obnubila qualunque testa. Roba pazzesca. Vabbè, allora che vuoi, Claudio? Senti, io volevo parlare di quel carrerino fascista di merda che si chiama Buffon. Ma che c'entra adesso? No, il carrerino fascista di Buffon. No, aspetta, Ti ricordi quando si mise quella famosa maglietta con boia che molla? Ma non lo, mi ricordo l'episodio, sì, me lo ricordo, ma allora qual è il problema? Non ho capito. Il pallone d'oro non lo prende, l'unico portiere che ha preso il pallone d'oro si chiama Jassi. Sì, vabbè, ma che me ne frega a me adesso del pallone d'oro? Ma che me ne frega a me adesso, perché tu sei comunista pure te? Vabbè, fregherà lui. Perché tu sei comunista pure te? Ma vengo da lontano, ma non sono andato troppo lontano. Vabbè, ma perché hai chiamato? No? Per dirci questa cosa? Ho chiamato per far sapere questa cosa. Ma che il passato di Buffon, cioè che avesse un passato, come dire, di simpatia per l'estrema, per l'estrema destra, per la destra, è noto. Chi se ne frega? Posso dire una roba? Lui chi se ne frega? D'oro. Da stasera ne ha presi quattro. Ma che c'entra? Ma questo, ma mica stiamo al bar qua, siamo un altro tipo di bar, non al bar. Ma gli volevo far sapere che c'è stato solamente un portiere nella storia che, ma lo che sappiamo, ha vinto il pallone d'oro, ma stasera, è un russo e comunista. Ma stasera come stasera com'è andata la dose? Niente? La dose? Rido. Va bene, dai. L'hai presa la dose come stasera? Come va bene? Non l'ha presa la dose. Margherita, no, no, Firenze. L'ho presa, Margherita, Firenze. Vai. Margherita, ciao, vai. Bello. Oh, Margherita. Margherita. Che pronto? Con chi parlavi prima? Con tuo marito? Con chi parlavi? Sì, con mio marito, esattamente. Che fa tuo marito? Che fa tuo marito? Ma aspetta per cenare. Ma che mangiate stasera? Allora, stasera mangiamo del couscous con le verdure e poi della mozzarella con pomodoro. Ottimo il couscous, vedi come le cucine internazionali entrano ormai nel tessuto sociale delle nostre famiglie. Ma non c'entra nulla. Un bellissimo esempio. Diciamo che il couscous è buono. Ecco, ma è un esempio anche di integrazione, di meticciato culinario. E stasera fate del sesso con tuo marito? Ma che ti frega di questo? È probabile, è probabile. Ma anche lei che risponde, ma che dice signora mia? Com'è tuo marito a letto? Senti Luciani, scusa, io avevo chiamato per un altro motivo. Sì, ma come ha letto tuo marito? Comunque, senti, io con mio marito sono 21 anni che si sta insieme, a proposito anche di tutte quelle argomenti che avevate poco fa. Ti posso dire solo una cosa, dimmi. Che da provare non so cosa ci rimane, ecco. Cioè? Pure. Non lo so cosa ci rimane, ci dovrei pensare, ma ora avevo chiamato. Cioè avete fatto di tutto ormai? Esatto, ed è sempre più piacevole. Te l'assicuro. Ma pure cose in tre, orge, cose di questo tipo? Ma dai, ma per favore, sto parlando di mio marito. Sei parenziana, io dai. E mio marito. Sei parenziana, dai, sei molto parenziana. Posso dire quello che volevo dire? Vai, ma sei molto parenziana, aspetta, te lo faccio dire tra un attimo, fermala. Lorenzo, tu sei il più grande culatore del mondo. Sei il più grande culatore del mondo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento La Zanzara. Severino Antinori, l'unico uomo al mondo che ha ricevuto un pompino contro la sua volontà. Roba da matti. Antinori è un maialone. L'ho incontrato in un casinò a Monte Carlo con due escort e quando è entrato le altre lo salutavano e idolatravano. Evidentemente erano delle ottime clienti o lui le pagava lautamente probabilmente. Comunque è un porco. Bella precisione, il bar che frequenta il buon Antinori in Spagna si chiamano Puti Club. Non oratorio delle orsoline. Come Macron. La mia città, la gente ormai non sa come arrivare a fine. Signor Cruciani, ci sei? Tutti sulle spese, la gente onesta, l'Italia che lavora, vendo la mia casa. Allora, la signora Margherita è fuggita, non so dove, adesso la recuperiamo. Intanto andiamo a Napoli da Andrea, vai. Ciao Giuseppe, ciao vai, Davide. Vai. Ciao, ciao, senti, no, volevo intervenire sul discorso di Totorrina. Volevo dire che ancora una volta ti sei messo, diciamo, in mostra per il tuo andare contro qualsiasi tipo di principio affermato dall'ordinamento italiano. Ma che a parte che non ha deciso ancora nessuno di scarcerarlo, sono ipotesi, se appunto, verrà presa in considerazione. Hai messo la questione come me ne fotto della Cassazione. Ma certo, assolutamente, perché secondo me non dovrebbe uscire. Cioè, punto. Per cui me ne fregherò di quello che dice la Cassazione. Ovviamente rispetto, sì, non è che voglio ammazzare i giudici. Nel merito di ma non mi interessa. La Cassazione espone un principio studio di diritto. Oddio, che vale come a Rina, come ma a Andrea, un altro ma non me ne frega nulla, non me ne frega niente. Mi spieghi perché DJ Fabo non ha diritto ad una morte dignitosa e invece Rina sì? Cioè, me lo spieghi perché? Adesso sono due questioni diverse. Ma fa incazzare, fa arrabbiare, ma fa arrabbiare questa, ma fa arrabbiare questa cosa o no? Che uno non ha diritto a una morte dignitosa e invece Rina sì? Fa incazzare o non fa incazzare questa roba? E dai, ma su. Se tu ti lascia perdere, non cambia lo stato di cose, cioè che il giudice delle leggi, cioè la Cassazione, ma è quello, nessuno, un principio di ma nessuno lo mette, ma nessuno mette in discussione che la Cassazione si possa pronunciare, certo, ma chi se ne frega? Ma certo, me ne frego. Ma certo, me ne frego perché quello che vuoi, ma vai contro la legge, cioè, ma non c'entra non niente, niente, non ho detto che bisogna fare le barricate, ho detto semplicemente che anche se la Cassazione dice una cosa, si può pensare che sia una cosa sbagliata. Sì, senza dubbio, però bisogna rimettere a posto la barra dritta e ricordare che la barbarie rispetto all'Occidente, ragazzi, è questa ma roba non qua. Diciamo cazzate, cioè, Rina, no, deve no, rimanere la barbarie. Aspetta, allora spiegami, ma voi siete spiegami, matti, volete Rina fuori dal carcere, no, siete no, matti. No, non la devi Rina mettere così, non è questo il punto. Volete Rina fuori dal carcere? No, no, no, allora, che comanda Rina avrà poche settimane o qualche un mese di vita, non mi interessa, quello può comandare un attentato anche con una mano così, per evitare che lui con un cenno degli occhi o della mano, come dice giustamente Gratteri, mi pare oggi in un intervista, va comunque tenuto sotto controllo, ma no, non ma in un strano regime di 41 ma bis. Ma cioè non è che lo vedrai girare per Mondello. Non lo vedrai girare per la spiaggia del Mondello. Non lo vedrai a Palermo. Non lo vedrai. Ragazzi, questo è un paese dove le persone vengono catturate nel proprio stesso luogo di nascita, nel luogo della propria residenza, infatti, a San Luca in Calabria, e poi viene fatto il baciamano ai boss della Ma questo è un altro tema verissimo. Andate a fare verissimo in culo. Però chiaro? La Cassazione dice solo che non Rina mi interessa della Cassazione. Malato ha diritto a una morte dignitosa. Me ne sbatto non i coglioni che della deve Cassazione andare in spiaggia a Mondello, Rina, capito? Moia in galera. Beh, con me tutta la sito. Me ne sbatto della Cassazione. Rina, è un atteggiamento sbagliato moia il tuo, in galera con tutta l'assistenza, ma moia in galera. Punto. Ma lui basta. Sta al 41 bis, cioè che è un regime ovviamente ancora più duro, come è giusto che sia peraltro il 41 bis. Davide, dimmi. Ciao Cruciani, no, volevo dire una cosa a questo passerotto di Parenzo, passerotto con le pale. Ah, come si chiama questo, a questo radioascoltatore, come che si chiama? Davide, mi ricorda molto il regista Solari, mi ricorda. Un po', da come che parla sei... mi ricorda il grande Giampiero Solari, mi ricorda da come che parla. Aspetta Davide, Davide stai un attimo calmo, sì. Davide, vuoi mettere gli auricolari, togliere gli auricolari? Passerotto con le pale, che non sei altro. Davide, devi togliere viva voce o qualcosa, se no non si capisce, sei con qualcosa. Tutto a posto, io sono straniero. Non si sente, non si sente, poi ti richiamo io. Se non si sente, allora abbiamo con noi un grande personaggio, Parenzo, sì. Un signore che è praticamente fruttariano, cioè a 35 anni è stato onnivoro fino a 31 anni, cioè mangiava tutto, negli ultimi 4 anni è diventato vegetariano, poi vegano e adesso praticamente fruttariano e vuole diventare melariano, amico mio, melariano, non lo so, ce lo spiega lui, Gabriele Ceracchini, buonasera, ciao Gabriele. Sì, ciao Giuseppe, ciao Davide, allora, ben trovati. Ecco. Ciao, allora Gabriele, vuoi diventare melariano? Che vuol dire che vuoi diventare melariano? Vuoi mangiare solo mele? Sì, ambisco a mangiare solo mele. Ma perché uno dovrebbe ambire a mangiare solo mele? Spiegami. Per avere la massima efficienza fisica, la massima lucidità mentale, la massima felicità. Cioè, secondo te, se uno arriva a mangiare solo mele, qualcuno ti ha detto, hai letto da qualche parte, che si arriva ad avere un'efficienza fisica, mentale, eccetera, eccetera, è così? Sì, è così. Ma non è che non solo mi è stato detto o l'ho letto, ma lo sto vivendo sul mio corpo insieme a centinaia di persone con cui sono in contatto. I fruttariani, tu sei fruttariano al 100%? Vabbè, no, più di fruttariano. Ma io sì, lo sono, il problema è che ogni tanto ti parte la frizione. Ogni tanto può capitare che faccia uno sgarro vegano. Cioè, peccati dico, uno sgarro vegano. Addirittura, questo è eccezionale. Uno sgarro vegano è bellissimo. Pensavo, dice, ogni tanto mi cambia di mangiare una pasta asciutta. Sì, no, figuriamoci, no, la pasta asciutta, perché la pasta asciutta è un delitto, secondo te? Beh, la pasta asciutta viene fatta a partire dai semi. I semi sono esseri viventi. Semi sono embrioni. In che senso, scusi, sono esseri viventi? Sono embrioni vegetali, no? Sono i figli delle piante. Cioè, allora, la pasta nasce dai semi e dunque sono embrioni. E il riso? Beh, stessa cosa. Sempre embrioni vegetali. Cioè, praticamente è in corso una strage di semi. Ogni giorno si perpetra una strage di semi in giro per il mondo. O sbaglio? Sì, che non sarebbe necessaria, peraltro, e che non ci porta salute. Quindi, cioè, per te, è i semi doppiamente gratuito e doppiamente sbagliato. Chiedo scusa, chiedo scusa. Posso io tollerare qualunque cosa? Io posso veramente, ormai la mia soglia di sopportazione arriva a tollerare qualunque cosa. Arriva a tollerare anche delle discussioni sulle cosiddette gang bang, cioè più persone insieme, marito, moglie, con altre. Ora però lei forse sta un po' esagerando, cioè lei mi sta dicendo che chi mangia il riso o il fusillo, uccide, il maledetto fusillo al burro, all'olio di oliva extravergine, non dico al ragù, uccide dei semi. Questo lei ci sta dicendo. Chi mangia un piatto di pasta non è che li uccide tecnicamente, perché sono stati a monte tritati vivi, quindi non è lui, cioè, a farlo macellaio, tecnicamente. È grave quanto un macellaio. Se posso, vorrei sottolineare il fatto che noi non ci atteniamo dai semi esclusivamente per questioni etiche, noi fruttariani, diciamo. Ma chi siete? Ma cosa vuol dire noi? Aspetta, noi fruttariani, cioè, come filosofia di vita. Perché non potrei dire noi? Siamo un gruppo di persone che condivide questo approccio. Quindi quanti sono i fruttariani in Italia? Le persone con cui sono in contatto io sono centinaia, però immagino che siano anche migliaia. Poi dipende cosa intendi per fruttarismo, perché non tutti e seguono il fruttarismo, cioè, avete il diritto di voto, proponiamo noi, sì, che ha delle precise condizioni e metodologie scientifiche per essere portato nel migliore modo. Altri sono fruttariani per finta, dici tu, no? No, altri lo sono più in modo, diciamo, istintivo e... Allora ragazzi, per riassumere, stiamo parlando con un signore che si chiama Gabriele Ceracchini, romano, mi sembra di capire dall'accento, e che si dichiara fruttariano praticamente al 100%, a parte qualche piccolo sgarro. Gli sgarri in che cosa consistono, caro Ceracchini? Ma prevalentemente patate, cipolle, può capitare la pizza rossa. Ecco. Anche lì c'è qualche forma di vita nelle patate, sì, no? Certo. Anche nelle patate è una radice, dunque c'è qualche forma di vita. E lui dice che la pasta asciutta e il riso, sto riassumendo, amici miei, la pasta asciutta e il riso non si possono mangiare perché alla fine sono il prodotto di alcuni baccelli, di alcuni semi che sono anch'essi forme di vita, dice Ceracchini, sostiene Ceracchini. E poi perché fa bene, giusto? È la cosa più importante in realtà. Io capisco che è più divertente dare spazio alla questione etica, no? Perché essendo inconsueta, eccetera. Ma in realtà la questione principale per noi è quella salutistica. È quella salute. Secondo te bisogna arrivare che i semi sono pieni di veleno, perché la madre pianta li difende dai predatori riempiendoli di sostanze tossiche. La metaboliti madre secondari killer. Vabbè, la madre pianta. Al di là di questa la roba qua. La madre pianta. Però la ma questione lei vota ancora il diritto di voto o gliel'hanno tolto? Ma certo che ha il diritto di voto. Ah no, chiedo perché sai. Certo, il signor Ceracchini sostiene anche che i dinosauri non esistono. Cioè, non è sicuro che... Ho sentito. Attenzione, io non ho mai preso una posizione precisa in merito o definitiva. Io ho semplicemente detto di avere un dubbio, ma quando mai un uomo si giudica sui propri dubbi? No, e chi vuole giudicarti? Per le proprie. Ma chi io non ti sto giudicando, no? Per niente, per carità, lungi da me giudicarti. Uno, dico semplicemente che uno che sostiene di avere dei dubbi sull'esistenza dei dinosauri e addirittura dice che i dinosauri sono creati in Cina, potrebbero essere stati creati in Cina artificiosamente. Che vuol dire sta cosa dei dinosauri? Spiega. Te la spiego subito. Guarda, io ho semplicemente detto che c'è una fabbrica in Cina che produce ossa di dinosauro, che sono quelle che le persone vedono dentro ai musei. Amico mio, ma i musei, certo, esclusivamente alcuni... per chiarire che nei musei non ci sono ossa vere, non si può parlare di quella come prova dell'esistenza dei dinosauri, e soprattutto dinosauri di quelle forme. Ma sono esistiti, amico mio, mettiti l'anima in pace. Ma guarda, ma che tu sei anche sei anche terrapiattista, per esempio? Cosa? Se sostieni che la Terra è piatta, no, per capire. Beh, diciamo che è un argomento del quale mi sto interessando. Cioè, molto, secondo te la Terra è piatta? Dimmelo chiaramente, dai, ma non mica, tanto ormai ne hai dette tante. Beh, dici, ormai ho detto una più, una meno. Beh, secondo me sì, penso che la Terra è piatta. Riformulo la domanda: lei ha ancora il diritto di voto rispetto a che sia una sfera rotante? Va bene. Nell'universo. Da quando si sono manifestati questi disturbi? Cioè, da quando è che... trattare come un disturbo? Da quando ho iniziato a informarmi in modo critico e indipendente e ho potuto esercitare il mio libero pensiero. E Galileo Galilei? Ma guarda, io non sono interessato a parlare né di dinosauri né di terra piatta, non sono argomenti per i quali mi interessa spendermi. Io voglio parlare di alimentazione. Ecco, ma come faccio io a prendere sul serio un signore che pensa che la terra sia piatta? Possiamo rimanere sull'alimentazione, no? Aspetta, ma no, ma come faccio a prenderlo sul serio però? Gabriele, aspetta, spiegami una cosa. Tu per esempio sarai anche sicuramente super animalista, immagino, no? Almeno è chiaro, le zanzare le uccidi o no? Oh, io le zanzare le intrappolo sempre con un bicchierino di plastica e poi le libero fuori dalla finestra. Sempre. Questo ragazzi, devo dire non da sempre, fino a qualche anno fa mi comportavo normalmente, le uccidevo. Ma questa è la cosa meno stramba che ha detto tutto sommato. No, i topi non ho occasione di incontrare topi, sinceramente. Ma si ammazzano quindi, i topi o no? Ma è chiaro che non li ammazzerei mai. I topi non si ammazzano, le zanzare si mettono dentro il coso, le formiche? Ma guarda, io quando vedo una tartaruga sul marciapiede, ogni volta la prendo e la butto nel cespuglio. Quando vedo una lumaca sul marciapiede, io perdo un minuto per 30 secondi per prenderla e per metterla al sicuro in un cespuglio, comunque, in modo tale che non capiti che possa essere comunque acciaccata. Ceracchini, inutile ti che mi inganni. Assicuro che non c'è niente di strano in questo. Siamo fatti per avere empatia nei confronti di qualsiasi essere. Sì, va bene, per carità, ma è le zanzare che mi fanno impazzire. Comunque, Ceracchini. A te fanno impazzire le zanzare. Cioè, no. Questo dice che la terra è piatta e a te fanno impazzire le zanzare. Tra l'altro è uno dei più famosi conferenzieri sulla terra piatta, cioè tiene delle conferenze sulla terra piatta. Ma non è vero, io non tengo nessuna conferenza sulla terra piatta. Vabbè, lasciamo perdere. È vero che quelli che mangiano la frutta come te, i fruttariani, fra poco melariani, fanno la cacca che non puzza? Sì, è verissimo, e questa cosa è di una potenza incredibile. Possiamo anche farci ironia, mi fa piacere, perché dopo quanti giorni tu, si verifica? Tu capisci che quando uno dite, almeno poi ti ascolta e quindi poi può anche capire delle cose. È importante, io sono appassionato al tema della guarda, cacca. Questa cosa della cacca, tra l'altro io non ho mai usato la parola cacca o cesso, ma mi è stato attribuito questo virgolettato in un articolo di Libero. No, ma voglio dire, non importa. Guarda, quando diventi fruttariano, ti assicuro che le feci iniziano a perdere l'odore sgradevole. E più vai avanti in questo percorso di perfezionamento alimentare verso il melarismo, e più, diciamo, defecare non è più un'esperienza sgradevole, perché lo sperma è migliore. E questa cosa è di una potenza incredibile, perché ognuno la può verificare nella propria vita. No, però Ceracchini, scusami, la cacca è solida, come la consistenza com'è? No, la consistenza è perfetta, poi a un certo punto diventano delle pallettine che non ti sporcano, come nessun animale si sporca in natura quando deve defecare. Delle pallettine. Inodore, al limite hanno un retrogusto di mela, ma parlo di stato pure avanzato di melarismo. Puoi anche mangiare a questo punto, diciamo, no? Già che ci sei, no, sei fame. No, perché sono quelli sono il cibo perfetto per l'albero del melo, che è stato in coevoluzione trofica con l'essere umano per milioni di anni. E va quindi bene, come noi mangiamo dal melo, il melo mangia da noi. No, però scusami un attimo, però amico mio, io voglio capire. Ma dove una l'hai cosa. Trovato te questo? Una che sta con te, come deve essere? Una fidanzata tua come può essere? Non può essere una persona che mangia delle cose, altre cose, deve essere una come te per forza, perché altrimenti certamente dovendo intessere delle relazioni dobbiamo farlo con persone che siano in grado comunque, di capirci, di condividere. La cacca dei fruttariani nonché futuri melariani non puzza e diventa praticamente a pallini, giusto? A pallini, a sì, pallini. Esce in un modo che non sporca e con una consistenza che non sporca. Parenzo, questo è importante sapere, questo è molto importante sapere. Tu lo sottovaluto, ma è molto importante. Sottovaluto, sì, è molto importante. È molto ognuno importante. Può verificarlo, io di certo non posso falsificare i vostri escrementi, no? Se voi volete fare una prova su quello che sto dicendo, parleranno loro al mio posto. Cioè, in che senso, scusa, parlano loro? No, lui dice nel senso che si dicono tante cose in ambito alimentazione, però le nostre sono verificabili. Se io ti dico fai un percorso in cui inizi a togliere certe cose e avrai determinati risultati, poi quelli li vedi, ce li hai davanti. Però a me fa impazzire la storia della pasta asciutta che contiene dei germi umani, di vita umana. La pasta asciutta. A proposito, ma si scopa meglio essendo fruttariani? Guarda, le prestazioni migliorano nonostante ti scenda comunque il desiderio, il chiodo fisso, quello ti scende perché ma amico mio, non mi avrai mai. No, ti scende. Cioè, praticamente c'è meno libido? Beh, non c'è più quel martellamento quotidiano che a volte ci addirittura ci fa distogliere da altre attività, no? Ma te credo, ma chiunque te lo direbbe. E lo sperma, l'ultima cosa, lo sperma. Ti assicuro che questa è una conferma ennesima che comunque si vengono diminuite le tossine nel corpo. Ma lo sperma di che qualità è? Lo sperma di che... La natura lo vuole far riprodurre. Ma lo sperma di che qualità è? Dottore, fuori, dottore, lo sperma in che senso, non ho capito. Lo sperma, no, lo sperma non è composto da esseri viventi, perché gli spermatozoi sono metà cellula e non sono esseri dotati di un metabolismo. Dunque, le donne che fanno certe cose, le donne che fanno certe cose possono stare tranquille. Ragazzi, ci dobbiamo lasciare, a domani. Volevo salutare Parenzio. Sì, Parenzio, come cazzo si chiama? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Poca figa massaggio.